America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. For campaign reporting that cast doubt on Donald Trump's assertions of generosity toward charities, the Pulitzer Prize in national reporting goes to David A. Fahrenthold of the Washington Post. Il premio Pulitzer, ha compiuto 100 anni. Beh, è vero, siamo alla 101esima edizione del Pulitzer Prize, però essendo stato lanciato nel 1917 ed essendo noi adesso nel 2017, a me piace pensare che ci siano 100 anni, che sia passato un secolo importante di storia del giornalismo. Ieri la Columbia University, che gestisce il premio, che era stato costituito appunto nel 1917 da Joseph Pulitzer, grande editore che lasciò l'università una somma importante perché fossero premiati dei giornalisti, perché fosse costituita una scuola di giornalismo, è stato assegnato ieri. E fra i premi più importanti, National Reporting, quindi per le corrispondenze nazionali, ha vinto David Fahrenthold del Washington Post, che ha fatto un'inchiesta sulle attività non profit di Donald Trump. Cioè, Donald Trump diceva di essere un grande filantropo, in realtà poi da questa inchiesta ci si è accorti che il grande magnate immobiliare aveva, come dire, la manina un po' corta. Poi altri premi, Eric Ayer del Charleston Gazette Mail, pensate, sono giornali locali, molto spesso ha vinto per un reportage investigativo per degli articoli sull'abuso di oppiacei in West Virginia. E poi una sorpresa, ProPublica ha vinto. ProPublica è una non profit fondata tra l'altro da Paul Steiger, che conoscevo molto bene, era il direttore del Wall Street Journal, ed è stato premiato nella categoria Public Service. Perché? Perché ProPublica ingaggia dei giornalisti, li paga grazie a delle donazioni che riceve e poi mette a disposizione questi articoli di altissimo livello a dei giornali che li vogliano pubblicare. E la serie che ha vinto è un'inchiesta sugli abusi del Dipartimento della Polizia di New York. Perché apro su questo? Ma perché stiamo passando un momento molto particolare nel giornalismo, un momento in cui c'è un'invasione dei social network, dei social media, chiunque può scrivere qualunque cosa, chiunque scrive quello che gli passa per la testa, ed ecco che nascono fake news. Abbiamo saputo di come organizzazioni si stanno dedicando specificatamente alla creazione di notizie che non sono vere, ma che riescono a trovare un loro canale di penetrazione nel circuito internet, e improvvisamente ecco che una storia fasulla diventa in qualche modo realtà. I can't imagine a stable and peaceful Syria where Bashar al-Assad is in power. Trump e Siria, ecco, la questione siriana resta in qualche modo sotto osservazione, perché il portavoce di Donald Trump, Sean Spicer, ha detto che potrebbero esserci degli altri attacchi. C'è stata una presa di posizione molto dura di Rex Tillerson, che si sta recando in Russia, una posizione di attacco nei confronti di Mosca per non aver controllato le armi chimiche che dovevano essere eliminate di Bashar Assad. Ecco, è proprio attorno alla crisi siriana che io stesso sono stato attaccato più volte per il mio reportage. Cioè, io mi trovo certe volte a raccontare un fatto e qualcuno mi accusa. Per esempio, una volta raccontai che un giudice per la seconda volta aveva bloccato l'ordine esecutivo di Donald Trump sull'immigrazione dai paesi islamici e fui immediatamente attaccato. Dice: tu sei contro Trump, non puoi permetterti di dire queste cose. E ieri che succede? Ho dato una descrizione di quella che dal mio punto di vista era una valutazione oggettiva. Certo, uno cerca sempre di essere oggettivo, di quello che era successo in Siria e del fatto che l'America aveva fatto bene ad attaccare un obiettivo militare, cioè l'obiettivo delle basi aeree. Ebbene, improvvisamente sono stato bollato da qualcuno su internet come portavoce della Casa Bianca. Immaginate, un altro dice: poveretto Platero, in fondo deve campare, quindi ci si presta a questo e ad altro. Ho seguito cose bizzarre che sono successe per altri colleghi. Per esempio, è stato un attacco a una collega, di nuovo super bizzarro. È stato detto che siccome aveva dato, come dire, una visione preoccupata di quello che stava capitando negli Stati Uniti, le aziende italiane non avrebbero investito. Immaginate, un imprenditore che conosce il suo mercato, conosce la sua azienda, conosce la concorrenza, nel momento in cui deve prendere una decisione, decide o meno di fare una cosa perché c'è un reportage più o meno negativo. Ecco, per questo ho aperto sul Pulitzer, perché occorre riflettere tutti e cercare di recuperare, secondo me, quelli che sono i valori centrali del giornalismo. La Columbia University continua a farlo ogni anno, spero, credo che un po' più di rispetto per coloro che esercitano la professione di giornalismo, poi tutti sbagliano naturalmente, sia importante, ma non per rispettare i giornalisti, ma per tutelare le nostre stesse democrazie. Rededicate ourselves to holding to account any and all who commit crimes against the innocents anywhere in the world. Ecco, e tornando ai fatti, avete sentito Rex Tillerson, segretario di Stato, arrivato ieri in Italia per partecipare agli incontri del G7 di Lucca e ha ribadito quelle che sono le linee politiche emerse nei giorni scorsi, tolleranza zero nei confronti di chi continua a violare il sistema e le regole internazionali. Quello che dicevo l'altro giorno è che qualche cosa è cambiato nel contesto dell'amministrazione Trump, un'amministrazione che sembrava voler rompere con le tradizioni del passato che poggiavano sul multilateralismo, sul rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e così via, e che invece in questo momento ha deciso di rientrare, tra virgolette, in carreggiata. Una posizione che naturalmente non è molto amata a Mosca. Sentiamo. Moscow cut off air safety cooperation with the US and Syria, and Russia's Joint Command Center, along with Iran and Syria, threatened to respond to any further US attacks. E arriviamo alla reazione di Mosca. Dal Cremlino, Dmitry Peskov, il portavoce di Vladimir Putin, ha precisato che non ci sarà un incontro tra il presidente russo e Rex Tillerson, dunque il segretario di Stato. Non succede spesso che non ci siano incontri a questo livello. Chiaramente la Russia vuole protestare per quello che è successo in Siria, vuole chiarire che la posizione di Bashar Assad non è negoziabile, ma dagli Stati Uniti di nuovo si torna all'attacco e si dice che Assad dovrà in qualche modo dimettersi. Devo dire che questo viaggio di Tillerson a Mosca diventa improvvisamente straordinariamente interessante, perché l'America sta cercando in qualche modo di frenare quello che finora è stato un espansionismo alquanto incontrollato della Russia di Vladimir Putin. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cosa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ci sono due episodi di cronaca che secondo me in qualche modo coincidono. Dopo 14 mesi finalmente la Corte Suprema ha il nuovo giudice. Vi avevo detto che Neil Gorsuch era stato approvato dal Senato, a questo punto ha giurato, è diventato il 113° giudice della Corte Suprema. Una corte che dovrà prendere decisioni anche in materia, secondo me, di armamento, e questo succede proprio nel momento in cui c'è stata un'ennesima sparatoria in una scuola pubblica americana all'interno di una classe a North Park di San Bernardino. Nel 2016 le sparatorie sono state 385. Chissà che questa Corte Suprema al completo, con la presenza di Gorsuch, non decida di occuparsi anche dell'eccessiva distribuzione di armi americane. E dunque, come canzone del giorno di Johnny Cash, Don't take your guns to town. Non portate le vostre pistole in città. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rolled away. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!